Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. C'è stato uno scontro politico tra una concezione riformista e questo sistema di poteri. Io ho perduto questa battaglia. Hanno vinto questi signori qua. Chi sono questi signori qua? I signori delle cliniche, per esempio. Sconfitto, dice, ma carico d'energia, come un fiume in piena, Ottaviano Del Turco, ora, dopo 28 giorni in carcere e 2 mesi ai domiciliari con l'accusa di aver preso tangenti nella sanità, dopo l'incidente probatorio col faccia a faccia con il suo grande accusatore, ora torna libero, con però l'obbligo di dimora a Collelongo. E dalle sue montagne abruzzesi l'ex governatore va all'attacco contro i poteri forti che non volevano le regole, contro i signori della sanità, dice, contestando punto per punto le ricostruzioni di Vincenzo Angelini, il re delle cliniche private, i cui verbali hanno portato al terremoto giudiziario del 14 luglio, spalancando per l'allora presidente dell'Abruzzo i cancelli del carcere. Dice di aver registrato tutto Angelini e di aver anche filmato i viaggi fino a Collelongo con sacchi di soldi. Lui li prende, li mette su uno scaffale, si aspettava proprio la consegna, non c'è stata neanche la pantomima iniziale classica, fa mettere a verbale il grande accusatore. Non è piaciuto che abbiamo tagliato la spesa sanitaria e la ricostruzione invece di Del Turco, che così replica alle accuse. Questo è l'aspetto più bello della libertà, in fondo. Noi stiamo parlando di una cosa che si chiama libertà. Io adesso posso, un cittadino che ha la possibilità di difendersi, perché io per 90 giorni ho dovuto ascoltare delle cose incredibili nei miei confronti. Pensi che mi hanno attribuito un appartamento a Piazza Navona, un appartamento al Pantheon, hanno scambiato la casa di Collelongo dei miei fratelli, una sopra l'altra per 5 piani, con un castello costruito da me e regalato ai miei fratelli. Hanno persino scambiato il mio cane per un gatto. Questa è la cosa più grave. La cosa che mi fa più male è che io ho passato 3 anni della mia vita a cercare di cambiare un sistema abruzzese che si fondava su una cosa molto semplice. L'Abruzzo non doveva avere regole, era una regione senza regole, e quando è una regione senza regole non si commettono delle irregolarità. E questo spiega il fatto che mentre c'è una grande attenzione in questa fase per ciò che ha fatto fino al 14 di luglio la regione, nella passata legislatura, dove sono state fatte delle cose tremende, si può benissimo dire che non erano reati per il semplice fatto che non c'erano delle regole e quindi nessuno commetteva irregolarità. Però nel 2005, per darle un'idea, la regione Abruzzo è stata la regione con il più alto tasso di spesa pro capite di tutte le regioni italiane, con il più alto numero di malati di mente. Il 6% degli abruzzesi risultavano malati di mente ed erano ricoverati per mesi nelle cliniche, che prendevano barche di soldi per queste cose. Cioè, lei sta dicendo che prima della sua direzione della regione Abruzzo non c'erano regole? Guardi, esisteva il Far West nella sanità. Nella sanità ognuno poteva dichiarare, durante l'organizzazione della prima cartolarizzazione, poteva dichiarare il numero dei ricoveri che aveva fatto. Pensi che non c'era nemmeno la possibilità di controllarli e bisognava pagare, solamente questo. Lei che tipo di regole ha introdotto? Cioè, io ne dico un po', tanto per parlare della cosa principale, ma non riguarda solo la sanità. Perché questo sistema di potere che c'era in Abruzzo aveva nella sanità probabilmente la fonte principale di sostentamento, ma l'acqua era uno degli elementi importanti della costruzione di questo sistema di potere. E penso che anche le autostrade sono state un pezzo di questo sistema di potere, perché noi abbiamo l'autostrada più piccola d'Italia, ma che paga le stesse tariffe che pagano le grandi autostrade larghe, il doppio delle autostrade abruzzesi. Questi sono i poteri che hanno deciso che un presidente che voleva mettere le regole era un impiccio. Quindi, secondo lei, è in questa direzione che bisognerebbe indagare? Sono un ex presidente di regione. Osservo che c'è stato uno scontro politico tra una concezione riformista, che rappresentava una parte della mia maggioranza, non tutta, e questo sistema di poteri, dentro il quale io alla fine non ho nessuna esitazione a dire, io ho perduto questa battaglia, ma quelli che hanno vinto non sono né l'Abruzzo né gli abruzzesi, hanno vinto questi signori qua. Chi sono questi signori qua? I signori delle cliniche, per esempio, i quali pensano che adesso si possa ritornare alle stesse tariffe di prima, allo stesso numero di posti letto, allo stesso sistema di sregolatezze di un tempo. Possono essere benissimo i signori dell'acqua, quelli che hanno avuto il coraggio di far scrivere sui giornali l'anno scorso che l'acqua di Pescara era quasi buona, lei comprende l'assurdità, è quasi un ossimoro, cioè dire un'acqua quasi buona è come dire che è quasi potabile, eppure questa cosa riguardava 250.000 utenti dell'acqua. Le accuse che le sono state rivolte sono però molto dettagliate. Il suo grande accusatore parla di una serie di incontri, parla sostanzialmente di soldi. Questi incontri con Angelini ci sono stati? Ma certo che ci sono stati, come si con tutti gli altri, imprenditori. Io ho visto tutti gli imprenditori abruzzesi, ma tutti proprio, ma non solo Angelini. Ma tutti, e l'unico che dice una cosa del genere è un signore che ha molte difficoltà a spiegare il bilancio della sua azienda alla Guardia di Finanza e alla Procura. In cambio di questa difficoltà a spiegare queste cose ha detto, ma io vi posso dire che insomma, questi soldi che non trovate nei miei bilanci è perché io li ho dovuti dare. Avrà visto anche lei però nei verbali che ci sono dei racconti molto dettagliati, le mele per esempio, le cene a Chieti. Mai stata una cena a Chieti con Angelini, per quanto riguarda le mele le devo confessare che le mele io ce l'avevo in un orto che avevo un tempo quando abitavo nell'altra casa con mia madre, come tutti sanno il giardino nel quale vivo adesso non c'ha le mele, adesso ho un orto qui vicino che mi potrà dare delle mele, allora chi vorrà delle mele potrà venirmi a trovare, quelle mele sono una sciocchezza. Questo per dire che i racconti di Angelini sono stati molto dettagliati, anche con elementi di colore. Io ho ascoltato l'incidente probatorio, tutto meno che dettagliati. Quindi lei dice che in sede di incidente probatorio tutto questo non è stato dettagliato? Ero convinto che si potesse dire che il processo era chiuso, che si poteva archiviare. Tante erano le contraddizioni, sa che nel corso dell'incidente probatorio Angelina ha detto che in realtà il vero ispiratore della congiura contro Villapini e Villapini sarebbe la sua clinica, era l'ingegner De Benedetti, il gruppo editoriale L'Espresso e tutti i giornali locali della catena, faceva passare la giunta come una giunta tutto sommato convinta da De Benedetti a dare una mano a questo disegno per liberare Villapini da questo signore. Queste le parole proprio di Angelini all'uscita dall'incidente probatorio. Del Turco non vi ha detto, sono andato da De Benedetti, ho parlato con De Benedetti e De Benedetti mi ha detto che era difficile investire in Abruzzo. E che io ho detto io da fare. Ma perché non interpreta come una confessione? Perché Del Turco ha sempre detto dei fatti miei, non si è mai occupato. È stato anche fatto il nome di Fassino? Sì, ma quella era una tale sciocchezza che infatti la mattina dopo si è affrettato a dire che non era vero, insomma sì, lui l'aveva detto, ma gliel'avevo detto io, cioè io avevo detto a Angelini, guarda, Fassino e un certo onorevole Angelucci, proprietario di cliniche a Roma e anche in Abruzzo, ce l'hanno con te. Ora, io ho una credibilità che nasce dal fatto che non racconto queste sciocchezze. Lui ha considerato a un certo punto che bisognava mettere di mezzo la politica nazionale, ha tirato in ballo Fassino e un deputato di Forza Italia, l'onorevole Angelucci. E poi quando aveva difficoltà a spiegare fino in fondo il cambiamento del suo rapporto con la procura e anche con la regione, ha detto che in realtà c'era una congiura nazionale guidata da De Benedetti dal gruppo L'Espresso. Ecco, Presidente, lei ha ricordato il fatto che è stato tirato in ballo anche un deputato di Forza Italia. Ecco, queste accuse in questi vari memoriali di cui si è parlato, appunto, sono state rivolte anche contro la giunta che l'ha preceduta. Non so leggerlo, perché finché quella giunta è stata in carica, cioè fino al 2005, è stata una giunta che non ha subito iniziative giudiziarie di questa portata, godeva di un'impunità che nasceva dal fatto che non gli si poteva contestare nessuna irregolarità, perché era una regione senza regole. A quella di Del Turco, ma anche a quella precedente, le accuse di Vincenzo Angelini colpiscono due amministrazioni di diverso colore politico. Un filosofo liberale inglese, Dahrendorf, dice che un vero liberale non solo non crede ai complotti ma nemmeno li organizza. Ecco, io sono uno di quelli, non credo ai complotti e non li organizzo, però penso che in questo scontro tra quest'idea riformista della regione e un'idea di una regione sondacchiosa, piccola, dunque non ha bisogno di grandi porti perché ha bisogno solo di un piccolo porto o di quattro piccoli porti, non ha bisogno di un grande aeroporto perché gli basta quello che ha, non ha bisogno di una ferrovia perché la stessa ferrovia che c'è da un secolo è sufficiente per il trasporto, e soprattutto è una regione che non ha bisogno di grande ambizione, può tornare tranquillamente a fare delle cose, gli scambi che c'erano a un tempo. Presidente, lei respinge tutte quante le accuse, ma nella sanità in Abruzzo, secondo lei, lei ci metterebbe la mano sul fuoco che non è avvenuto neanche lontanamente, o diciamo quello di cui si parla? Di... Ma io la mano sul fuoco ce l'ho messa, me la sono bruciata. Lei ce la mette sul suo conto, io no, dico anche sugli altri. No, guardi che io sto parlando della sanità abruzzese. Io ho pensato che fosse possibile a una giunta che aveva il 60% dei voti avere ragione di una piccola minoranza di caimani che era convinta di poter fare i soldi sulla pelle della sanità degli abruzzesi. E alla fine però questa gente si è coalizzata contro, non contro la giunta, contro una parte della giunta, contro di me. Nella seconda parte dell'intervista, Ottaviano Del Turco, presidente dimissionario della regione Abruzzo, travolto da un'inchiesta su tangenti e sanità, ritorna sui suoi passati incontri con il suo grande accusatore, ma parla anche delle tante visite ricevute in carcere e si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei suoi colleghi di partito. Storielle. Storiacce. Il 30 novembre e il 1 dicembre l'Abruzzo sarà alle urne per eleggere il suo nuovo presidente regionale dopo le dimissioni di Ottaviano Del Turco. L'ex governatore ha lasciato l'incarico travolto da un'inchiesta della Procura di Pescara che ha voluto l'arresto suo e di altri politici per uno scandalo di tangenti e sanità. A lui, a Del Turco, si contesta di aver preso mazzette per 6 milioni di euro da uno dei re della sanità privata locale, Vincenzo Angelini, diventato il suo grande accusatore. Ha messo a verbale Angelini di aver pagato ogni volta che in una riunione di giunta si decideva per i suoi accreditamenti per le sue cliniche. Soldi a tranche per un totale di quasi 14 milioni. Soldi 5 milioni e 800 mila euro portati a volte direttamente in sacchi a Collelongo, ha raccontato. Mazzette che sarebbero finite anche al capogruppo del PD regionale e ad altri politici. Questo sistema mi ha stritolato e io ho appena cominciato, ha dichiarato Angelini, aprendo le sue lunghe confessioni e poi il difficile faccia a faccia dell'incidente probatorio. Sono stato minacciato, ha aggiunto. Solo fesserie, la replica di Del Turco, che mette in evidenza soprattutto le tante contraddizioni emerse, a suo dire, proprio dal racconto del suo grande accusatore. Possibile che con tutti gli imprenditori che ho visto incontrato, l'unico che aveva l'obbligo di scambiare 5 mele per 250 mila euro, cioè 50 mila euro a mela, era Angelini. A casa mia sono venuti tantissimi, nessuno ha avuto delle mele, nessuno ha portato dei soldi e dunque sono assolutamente tranquillo. La mia tranquillità in questa faccenda, sa dove nasce? Nasce dal fatto che io dovrei giustificare 6 milioni che mancano dal bilancio di Angelini, ma io non sono in grado di fare questa operazione, perché per me la cifra di 6 milioni, cioè di 12 miliardi di vecchie lire, è talmente grossa che è più grande della mia capacità di conversarci sopra. Lei ha anche dato un grande segnale di trasparenza dicendo cercate in tutti i miei conti. E l'hanno fatto, hanno sbattuto la testa con il fatto che quei conti erano tutti precedenti a quando io ero presidente della regione e sono stati spesi solo per cose che riguardavano la mia famiglia. Compreso il fatto che io con 6 milioni di euro, signora, ho lo sfratto alla Casa di Roma. Un signore con 6 milioni di euro non ha paura di un aumento dell'affitto. In questi lunghi giorni in carcere ci sono stati anche tanti politici che sono venuti a farle visita. Ecco, da questo punto di vista, lei la reazione del mondo della politica come l'ha letta? È gente che mi conosce da 40 anni, e quindi è gente disposta a fare una cosa bellissima, a scommettere sulla mia estraneità. Il fatto che lo abbia fatto il Presidente del Consiglio Berlusconi onora me ma onora anche questo paese, perché se un Presidente del Consiglio dice che ci sono dei diritti costituzionali da rispettare, primo dei quali è la presunzione di innocenza di una persona qualunque, quindi anche mia, lei dovrebbe essere contenta di questa cosa, perché se le capitasse qualunque cosa, lei dovrebbe essere felice del fatto che un Presidente del Consiglio difende questa concezione della Costituzione dei diritti dei cittadini. Che il Presidente della Repubblica in quegli stessi giorni ha parlato contro la spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie, io sono sicuro che non si riferisse solo al caso mio Napolitano, ma io mi sono riconosciuto in questa definizione. E io sono stato messo per 3 giorni in un'ala riservata del carcere, mi hanno persino proibito di portarmi nella mia cella le poesie di Pier Paolo Pasolini. 34 anni dopo la morte di questo scrittore maledetto, era ancora tanto maledetto da non poter nemmeno far compagnia a un detenuto. Ma lei capisce che sono cose sulle quali bisogna... Ho ricevuto una lettera dal direttore della facoltà di ingegneria nucleare e della fisica nucleare dell'università di Princeton, la prima università americana, una lettera di solidarietà perché mi conosce e mi stima. Ha aggiunto che lui, dal punto di vista della cultura democratica legale degli Stati Uniti, gli sembrava una cosa orribile quella che mi stava capitando. Anche a me sembrava orribile, in effetti, pur non avendo la cultura di quella grande nazione democratica che si chiama Stati Uniti d'America. Ecco, Presidente, c'è qualcuno da cui si sarebbe aspettato una visita e che non è venuto, oppure un segnale? Guardi, a me bastano quelli che sono venuti. Se poi lei mi chiede se da parte del Partito Democratico si aspettava un atteggiamento più, più espansivo, sì, le confermo che mi aspettavo un atteggiamento più espansivo, che non c'è stato, perché c'è un vecchio problema non risolto, sia della componente ex democristiana, sia della componente ex comunista in quel partito, che non riesce a fare i conti con il tema delle garanzie giuridiche dei cittadini, perché pensa sempre che è meglio non disturbare il conducente di queste cose. Io non sono d'accordo. In ogni caso, ognuno fa quello che vuole in questi casi. Io mi sono tenuto mi sono arrivate tante di quelle lettere da parte di dirigenti del Partito Democratico che mi bastano. Certo, mi sarei aspettato da parte di Walter Veltroni e da qualcun altro un atteggiamento un pochino più attento anche ai miei diritti. Quale ricordo si porta soprattutto del carcere? Lei ha raccontato di aver incrociato anche dei detenuti condannati per mafia. Sì, è stato un incontro grottesco, imbarazzante. Io stavo tornando dall'infermeria e l'agente del DAP che mi accompagnava ha visto da lontano nel corridoio questi due signori che andavano verso l'infermeria anche loro, accompagnati. Ha detto: quelli sono due detenuti del reparto 41 bis. E me ne sono accorto perché quando sono passati mi hanno fatto uno strano sorriso, come dire, hai visto, alla fine tocca a tutti. E questo mi ha molto infastidito, devo confessare. Per qualche giorno è stato anche in isolamento nel carcere di Sulmona del Turco, che in prigione è rimasto per circa 2 mesi prima di passare agli arresti domiciliari. E proprio in quel momento ha subito anche la visita in casa dei ladri, che tra l'altro hanno rubato la sua auto. L'Audi A6 dell'ex governatore è stata poi ritrovata in pieno feudo dei casalesi a Giuliano, nel Napoletano, come la stessa segretaria di Del Turco ha fatto sapere. A Collelungo ora l'ex presidente dell'Abruzzo si dedica soprattutto alle passeggiate in montagna, ma segue con molta attenzione le vicende politiche della sua regione e quelle nazionali, convinto di tornare a fare politica, perché, dice Del Turco, sono innocente, quindi sereno. Io posso confessare tutti i dati che vuole, l'unico che non posso confessare è questo dei 6 milioni, perché io non saprei poi dove andarli a prendere, perché poi dovrei dire dove stanno, no? Io finalmente dopo 90 giorni riesco a parlare a qualche cittadino che per 90 giorni ha dovuto sentire solo le ragioni di Angelini e dei suoi avvocati. C'è qualche errore che lei si attribuisce? Sì, quello di aver pensato di poter avere ragione della somma di questi poteri. un uomo che fa politica deve fare i conti con i rapporti di forza. Io ero convinto che, avendo vinto le elezioni con il 60%, avevo sufficiente autorevolezza per affrontare questa battaglia, ma mi sbagliavo, perché dentro questo 60% c'era anche gente che non la pensava così. Seguirà soltanto a distanza le elezioni che ci saranno in Abruzzo? Con assoluta distanza, guardi, con totale distanza. L'unica cosa che mi incuriosisce è che io avevo introdotto il principio della presenza delle donne nel listino con una percentuale che era la più alta d'Italia, 5 su 7, e voglio vedere come faranno adesso. Sarei contento che almeno imitassero questo aspetto della mia gestione della politica abruzzese. Secondo, sono proprio curioso di vedere come faranno a spiegare al Ministero dell'Economia e al Ministero della Salute che in fondo sulla sanità si possono rivedere quei conti e magari si può restituire qualche posto letto e si può rivedere qualche tariffa che in modo molto giacobino noi avevamo tagliato del 30%. Quella è una cosa che mi incuriosisce molto. Dopo voglio vedere come farà il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute a dire: beh sì, siamo stati un po' troppo severi con la giunta del TUR, abbiamo chiesto di fare troppi tagli. Li hanno fatti, ma se tornate un po' indietro chiuderemo un occhio. Voglio proprio vedere se succede una cosa del genere.